Sabato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Che giornata anche oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di grande intensità e anche di drammaticità. Naturalmente in primo piano, lo sapranno naturalmente tutti, avete seguito le notizie, abbiamo fatto anche uno speciale dalle 18 alle 18.30 sull'alluvione terribile che ha colpito la Sardegna, un ciclone, Cleopatra. Quante volte abbiamo sentito parlare di cicloni che hanno colpito l'Italia? Poi cercheremo di capirne qualcosa con Mario Tozzi, notissimo geologo, conduttore televisivo, divulgatore scientifico. Com'è possibile che un ciclone colpisca l'Italia, no? E anche se in realtà la Sardegna ha dei precedenti e non solo la Sardegna. Poi l'altra questione è le dimissioni della ministra Cancellieri. Si dimette prima di domani del voto, cioè alla Camera, per la mozione di sfiducia. Si attende un suo passo e si attende anche di capire questa sera all'assemblea del PD che cosa decideranno. Si sono riuniti i parlamentari del PD per decidere una linea comune da tenere domani per la votazione. Intanto cominciamo mentre vi sto per raccontare quindi sinteticamente la giornata di oggi, prima di passare agli ospiti, quali sono i fatti principali? Quindi dicevo, l'alluvione che ha colpito la Sardegna, il bilancio provvisorio è di 16 vittime, tra cui 4 bambini, trovato vivo uno dei due dispersi. Il governo decreta lo stato di emergenza e stanzia 20 milioni di euro. PD, dicevamo, Renzi chiede le dimissioni della Cancellieri e questa sera appunto dovrebbe essere iniziata da circa mezz'ora l'assemblea del Partito Democratico. La caccia all'uomo a Parigi, smentito l'arresto dell'attentatore di Liberation. Russia, libero su cauzione d'Alessandro, il militante di Greenpeace in carcere nel paese dopo l'assalto a una piattaforma petrolifera di Gazprom nell'Artico. E calcio, oggi serata di verdetti verso i mondiali 2014. Quindi in primissimo piano naturalmente c'è il ciclone Cleopatra che, come vi dicevo, ha colpito in modo pesantissimo la Sardegna, provocando morte e distruzione. Abbiamo parlato del bilancio provvisorio che è di 16 morti, tra cui 4 bambini e un disperso. La parte più colpita dell'isola è quella centrale e settentrionale, in particolare diciamo il nord-est, la zona di Olbia. Il Consiglio dei Ministri, convocato d'urgenza, ha dichiarato lo stato di emergenza. Il capo della Protezione Civile Gabrielli, arrivato sull'isola, ha detto: in 24 ore è caduta sulla Sardegna la pioggia di 6 mesi. Nel pomeriggio è arrivato sull'isola anche il presidente del Consiglio Letta. Il governo ha quindi decretato lo stato di emergenza e sono stati stanziati 20 milioni di euro. La decretazione dello stato di emergenza e lo stanziamento di 20 milioni di euro, queste le misure immediate prese dal governo in un consiglio dei ministri lampo convocato in via straordinaria. Una tragedia nazionale, un dramma di proporzioni incredibili e l'impegno delle istituzioni sarà massimo, ha detto il premier Letta, che nel pomeriggio è volato a Olbia. Abbiamo deciso lo stanziamento immediato per la immediata emergenza di 20 milioni di euro. Questa scelta ovviamente riguarda l'immediato, non riguarda poi tutto ciò che avrà a che vedere con l'eventuale lavoro di ricostruzione. Il governo con il ministro dell'Ambiente Orlando ha tenuto un'informativa alla Camera. Il ministro ha difeso l'operato della Protezione Civile dalle accuse di aver diramato in ritardo l'allerta. Il Dipartimento avvisò domenica scorsa, indicando una criticità al massimo livello, ha detto Orlando, ribadendo l'eccezionalità delle piogge cadute sulla regione. Indignato per le accuse il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli. Su questo non intendo fare sconti a nessuno, men che meno a biscazzieri del web. E da tutte le istituzioni manifestazioni di cordoglio per le vittime. Napolitano ha subito diffuso una nota nella quale ha espresso solidarietà alle comunità colpite e commossa partecipazione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi ne parleremo, come vi dicevo, in modo più approfondito. E anche la Calabria è stata colpita dal maltempo, anche se ora la situazione è un po' migliorata. La zona più colpita è quella ionica, fra le province di Crotone e di Catanzaro. Nel giro di 6 ore sono caduti in media 15 centimetri di pioggia. Fiumi e torrenti sono straripati, allagando i piani bassi delle case, creando problemi al traffico. In particolare a Sellia Marina, per alcune ore, un paio di villaggi sono rimasti isolati, raggiungibili solo in elicottero. Per fortuna si tratta di zone di vacanza, in questo periodo poco abitate. Comunque sono state evacuate alcune decine di persone. Circa 50 centimetri d'acqua nel centro di Ciron Marina, nel Crotonese. A Catanzaro la situazione è più difficile nel quartiere Germaneto, ai piedi della collina. Strade allagate e per un guasto alla condotta idrica manca l'acqua potabile in alcune zone. Scuole chiuse nel capoluogo fino a giovedì. Problemi alla viabilità per alcune ore sulla statale che collega Lamezia Terme a Catanzaro, quindi la sponda tirrenica alla Ionica. Restano invece i disagi sulla statale 106 Ionica nei pressi di Crotone, perché è stato chiuso il ponte sul fiume Neto che è straripato. In provincia di Vibo Valentia Venezia, allagati i centri storici di alcuni comuni come Serra San Bruno, dove anche il Museo della Certosa ha subito danni. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di Calabria, per il violento nubifragio che, come avete sentito, ha colpito la città di Catanzaro, ha provocato decine di milioni di danni. E quindi la giunta comunale ha deliberato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale al governo. E arriviamo quindi al caso Cancellieri. Da oggi gli atti della Procura di Torino sulla vicenda Cancellieri sono al vaglio della Procura di Roma. A Piazzale Clodio è stato aperto un fascicolo cosiddetto modello K, ossia senza ipotesi di reato ed indagati, però che necessita di approfondimenti. E da poco è iniziata l'assemblea del PD che deve decidere la presa di posizione sul caso della Guardia Sigilli. Sentiamo intanto cosa ha detto Renzi. Ci sono due sole alternative. O il segretario, il presidente del Consiglio vanno al gruppo e dicono: signori, poniamo una questione di fiducia del governo sulla vicenda Cancellieri, lo può fare soltanto il presidente del Consiglio, fossi lui non lo farei, e dice: io metto la faccia sulla vicenda Cancellieri e dico che non bisogna toccarla. In qual caso è il presidente del Consiglio che si assume una responsabilità che io, fossi nei suoi panni, non prenderei. Oppure il PD deve votare. A quel punto saranno i singoli parlamentari a dire: su questa posizione io la penso così, la penso così. E voi come la pensate? C'è la pagina sempre a vostra disposizione di Facebook, Effetto Notte - Roberta Giordano, per esprimere la vostra opinione. Cosa deciderà il PD? Riuscirà a raggiungere questa sera nella sua assemblea una linea comune sul caso Cancellieri? E nel caso, quale sarà? Quindi pagina Effetto Notte su Facebook, oppure i messaggi via cellulare al 349-238-6666. E c'è, a proposito di politica, anche da parlare di riforme, perché in una delle ultime versioni della bozza di riforma che domani dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei Ministri c'è un taglio consistente, intanto una bozza, è un taglio consistente del numero dei parlamentari. I senatori dovrebbero diventare 200 da 630 che sono, e i deputati 480 dai 315 che sono. I deputati 200 dai 315 e i senatori 200 e i deputati 480. Un po' di confusione, la quota di italiani all'estero resterebbe solo a Palazzo Madama. Economia, l'OCSE rivede al ribasso le stime per il PIL, il prodotto interno lordo, dell'Italia nel 2013. Ridurre il debito pubblico con un programma più ambizioso. Questo l'invito rivolto dal capo economista dell'OCSE Piercarlo Padovan all'Italia in tema di conti pubblici nell'outlook autunnale. Se si taglia il debito attraverso la spending review di Carlo Cottarelli, i benefici come la riduzione dello spread sono molto importanti. Quanto alla crescita, il PIL italiano salirà dello 0,6 nel 2014, un segnale incoraggiante dopo 9 trimestri di crescita negativa consecutivi. Ma la ripresa sarà senza occupazione e trascinata dall'export. Quindi saranno vitali le missioni governative per il mondo a caccia di nuove commesse. Infine, il consueto invito a ridurre le tasse sul lavoro per aumentare la competitività e dare più spazio ai consumi interni. Vittorio Darold, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso all'estero con la Russia, è libero su cauzione l'attivista di Greenpeace, D'Alessandro. Rilasciati su cauzione ma non ancora liberi di tornare a casa, finisce almeno temporaneamente l'incubo per 12 attivisti di Greenpeace, tra cui l'italiano Christian D'Alessandro, arrestati 2 mesi fa nel corso di un blitz ecologista contro la piattaforma petrolifera del colosso Gazprom nel Mar Artico. Mosca sceglie dunque la linea morbida nei confronti degli attivisti dopo il trasferimento dei 30 dalla località di Murmansk a San Pietroburgo. Per loro sarà sufficiente versare entro i prossimi giorni una cauzione pari a 2 milioni di rubli, circa 45.000 euro, da verificare invece la possibilità di lasciare in tempi rapidi il territorio russo, essendo tuttora sprovvisti di passaporto. Anche per questo Greenpeace International frena per ora gli entusiasmi. Raffaella Ruggero, madre di Christian D'Alessandro, anticipa a Radio 24 la sua imminente partenza per la Russia. Stiamo preparandoci per partire, appena avremo il visto andremo, perché non vediamo nostro figlio dal mese di agosto, che è la data di partenza per la missione dell'Arctic Sunrise. La prima telefonata è stata di una sua carissima amica che sta seguendo con noi e sta penando con noi come fosse una nostra figlia. Le forti pressioni internazionali hanno dunque avuto l'effetto di bloccare la richiesta dell'accusa, che chiedeva un prolungamento della detenzione pari ad altri 3 mesi. Richiesta in realtà accolta per un solo attivista, l'australiano Colin Russell, che ha visto la sua carcerazione confermata. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo sulle notizie dall'estero. La polizia francese ha smentito che la persona arrestata oggi a Parigi sia l'attentatore ricercato in fuga da ieri. Gli inquirenti affermano di disporre di numerosi elementi, ma non sono ancora in grado di identificare il sospetto, che dovrebbe essere un uomo fra i 35 e i 45 anni, in apparenza europeo. Ed è un ricordo, tutti lo ricordano come l'autore di Io speriamo che me la cavo. È morto a Napoli a 60 anni Marcello D'Orta, il maestro elementare che nel libro aveva raccolto i gustosi racconti dei suoi bambini. Sentiamo allora il ricordo di Cesare Moreno, maestro di strada di Napoli, al microfono di Maria Piera Ceci. Parliamo della situazione da cui è partito il libro e il fatto che lui stava in una scuola di periferia con pochi mezzi, pochi sostegni e ragazzi che con cui era difficile stabilire una relazione educativa classica basata sull'italiano e basta. Lui è stato bravo perché, a cominciare dal titolo, è stato capace di accogliere le sgrammaticature e capire però invece l'espressione viva che c'era dietro quelle frasi, quindi a cominciare dal titolo, che se lui l'avesse scritto in perfetto italiano non avrebbe avuto il successo che ha avuto. Quindi per me è un maestro che capiva prima ciò che i ragazzi esprimevano di sé e poi la grammatica. Troppi insegnanti pensano prima alla grammatica e poi alle persone e questo non va bene. Una persona di grande umanità. E poi c'è il calcio, degli spareggi però in vista dei mondiali parleremo più tardi. Adesso, prima di aggiornare chi sta viaggiando, volevo leggere già alcuni vostri messaggi sulla pagina Facebook effettonote_Roberta Giordano, a proposito dell'assemblea che c'è stasera del PD, che deve decidere se avere una linea unitaria e quale sul caso Cancellieri domani, no? Si vota alla Camera la mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle, però c'è anche Civati del PD che ne ha proposta una sua. Allora Domenico Alberto scrive: mi sembra un film già visto, com'era la storia dei 101, che naturalmente non si riferisce alla carica dei Dalmata, ma a coloro che hanno fatto cadere Prodi nell'urna, che doveva essere Presidente della Repubblica. Poi Vela scrive: linea comune è un termine sconosciuto nel PD. Aulo Marco: non credo che ci sia una linea comune, ci sarà battaglia. E poi dice: Cancellieri a casa. E anche per Elena: non ci sarà nessuna linea comune. Piuttosto pessimisti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Comunque possono continuare tranquillamente i vostri messaggi sulla pagina Facebook oppure al 349-238-6666. Poi parleremo anche della Sardegna tra pochissimo e cercheremo anche di capire se questi fenomeni sono appunto delle cose assolutamente eccezionali o se il clima sta effettivamente cambiando. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Riprendiamo allora, prima di parlare, di approfondire la situazione difficile della Sardegna, come già fatto appunto nello speciale dalle 18 alle 18.30 oggi, vi ricordo i titoli principali. Naturalmente il primo è l'alluvione che ha colpito la Sardegna, col bilancio provvisorio che è di 16 vittime, tra cui 4 bambini. C'è un disperso, il governo intanto decreta lo stato di emergenza e stanzia 20 milioni di euro. PD, Renzi chiede le dimissioni della Cancellieri, uno degli argomenti sul quale potete continuare a esprimere la vostra opinione. Intanto stasera appunto c'è l'assemblea del PD, del Partito Democratico, per decidere che linea avere domani. La caccia all'uomo a Parigi: smentito l'arresto dell'attentatore di Liberation. Russia, libero su cauzione da Alessandro, militante di Greenpeace in carcere in Russia dopo l'assalto a una piattaforma petrolifera di Gazprom nell'Artico. E poi per il calcio, oggi serata di verdetti verso i mondiali 2014. E saluto subito Antonella Brianda. Ciao Antonella. Salve, buonasera. Giornalista di Olbia Notizie, che oggi ha avuto veramente tanto lavoro, era prima anche nello speciale delle 18, ma insomma ha costellato un po' tutta la sua giornata di continui interventi, anche perché Antonella non solo è sul territorio, è in Gallura, che è la zona più colpita da questo ciclone, dall'alluvione in Sardegna, ma poi hai anche girato per le case, anche ripreso dei filmati per renderti conto e per anche documentare la situazione concreta, no, delle persone che si trovano adesso in questa situazione, Antonella. Sì, io sono stata in alcune zone, quelle particolarmente colpite, che sono zone molto popolari di Olbia, dove le case sono ancora invase dal fango. Moltissima acqua è stata tolta. Ovviamente è inutile dire che le persone sono disperate, ci dicono che veramente stanno in ginocchio, servono vestiti, coperte, pasti caldi. Quindi la situazione è veramente drammatica. Meno male ha smesso di piovere, per cui una piccola tregua, e continuano le ricerche delle altre persone che sono date per disperse, anche perché tu parlavi di un disperso, ma qui la protezione civile non trova altre persone. Non hanno voluto comunicare il numero perché pensano che molti non abbiano fatto, diciamo, non si siano rivolti alle forze dell'ordine, ma stiano magari a casa di qualche parente o di qualche amico e non hanno comunicato i propri spostamenti. Per quanto riguarda invece le vittime, è stata creata una camera ardente in una chiesa del quartiere maggiormente colpito, che si chiama il quartiere della Sacra Famiglia, e come dicevi ci sono delle vittime molto giovani, tra cui un bambino piccolo a Olbia e una bambina di 2 anni. La situazione, insomma, è quella che è. Le case sono veramente distrutte in alcuni quartieri, alcune strade sono inagibili, i detriti sono veramente ovunque, così come i cassonetti, piuttosto che tutto il materiale che le persone hanno tirato fuori dalle case per tentare di pulire, di sistemare, per cui a volte è impossibile passare nelle strade per questo motivo, perché la gente ha portato fuori i mobili, gli elettrodomestici, tutto. Quindi una situazione veramente tremenda. Tra l'altro, questa è una notizia che è arrivata poco fa, la Tirrenia CIN ha fatto sapere che garantirà i viaggi gratuiti per i residenti nelle zone colpite dal maltempo in Sardegna. Lo comunica la compagnia di navigazione, che ha attivato una serie di misure straordinarie per agevolare gli spostamenti di volontari, parenti, soccorritori e popolazione colpite. Quindi viaggi gratis per i residenti nelle zone. E poi c'è anche questo annuncio dell'Unione Europea che dice: siamo pronti a valutare una domanda di aiuti. L'abbiamo sentito, insomma, anche noi stiamo seguendo queste cose. Certo, le persone, anche loro si stanno documentando, sono molto scettiche, perché l'arrivo di 20 milioni di euro ovviamente non arriveranno ai cittadini, per cui loro dicono: intanto noi stiamo qua senza una casa, senza più niente. È ovvio che ci sia tanta disperazione, che i fondi magari fanno star più sereni gli amministratori, e la mia non è una critica, è semplicemente il sentire comune della gente. Ecco. Antonella Brianda, io ti ringrazio e ti auguro buon lavoro, buona continuazione. Grazie, che so che purtroppo anche per te non finisce qui. No. Grazie Alessandra, Antonella, grazie. Buon lavoro. Arrivo. Grazie a te. E allora sentiamo, a proposito di stanziamenti di cui parlava anche Antonella Brianda, del governo italiano, annunciati oggi da Letta, che è arrivato c'è stato prima il Consiglio dei Ministri d'Emergenza e poi è arrivato sull'isola, era in riunione con il governatore Cappellacci e con il capo della protezione Gabrielli. Sentiamo cosa ha detto. La comunità nazionale tutta è vicina oggi alle popolazioni che sono state colpite così duramente in Sardegna da un evento straordinario. Sono stato qui per incoraggiare il lavoro di tutti i volontari, di tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine che stanno operando con il massimo di impegno. Stamattina abbiamo allocato le prime risorse, 20 milioni di euro per l'immediata emergenza. C'è il tema della viabilità interrotta, c'è il tema che ovviamente rende più difficili i soccorsi, abbiamo fatto il punto su questo, c'è il tema delle popolazioni da assistere, purtroppo con il ritorno della pioggia adesso la cosa si è fatta più complicata, e naturalmente c'è il tema dell'aiuto agli sfollati, oltre che del tentativo di recuperare gli ultimi superstiti. Lo Stato c'è, lo Stato sta facendo il massimo, sono venuto qui soprattutto per dire questo e per dire che i 20 milioni messi stamattina sono una prima parte di impegno che riguarda appunto l'emergenza, l'uscire da questa emergenza, e soprattutto poi continueremo a star dietro a questa emergenza nella fase della ricostruzione di cui ho parlato adesso con i sindaci che chiedono giustamente l'esclusione dal patto di stabilità per tutto ciò che ha a che vedere con la fase di ricostruzione, e sicuramente sarà così. E poi sentiamo anche che cosa ha detto, ci sono state delle polemiche su possibili ritardi per l'allerta, ma il capo della protezione civile Gabrielli ha risposto con una certa fermezza oggi. Su questo non intendo fare sconti a nessuno, men che meno a biscazzieri del web, e su questo poi ci misureremo nelle sedi competenti, perché noi operiamo in base a disposizioni, norme che fino a prova contraria regolano la vita di questo paese, piaccia o non piaccia. L'evento di ieri è stato un evento eccezionale. Marco Tozzi, buonasera. Mario Tozzi, sì. Scusami Mario. Buonasera, eccoci. Geologo, notissimo conduttore TV, divulgatore, scientifico, ricercatore dell'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR. Ti conosco tutti Mario. Senti, parlava Gabrielli di una situazione assolutamente eccezionale. Oggi c'era Luca Mercalli nello speciale che ho fatto dalle 18 alle 18.30, climatologo, meteorologo, eccetera, che ha detto, insomma, non è così eccezionale, la Sardegna già 5 anni fa era stata colpita da un evento del genere, solo che siccome ci sono stati i morti, perché ha colpito una zona particolarmente popolata, se ne è parlato così, altrimenti si lascia un po' correre su questi eventi. Secondo te è effettivamente eccezionale o no? No, sono d'accordo con Mercalli, mi dispiace, ma intanto nel 2008 i morti erano stati comunque 4, quindi non è che non ci fossero state vittime. Ma poi c'è un dato molto più importante e interessante, la mortalità per alluvione in Sardegna è più alta della mortalità per alluvione sul territorio nazionale. E quindi non è che possiamo nasconderci la testa dietro questi dati qui. Se ci sono più morti per alluvione in Sardegna che nelle altre parti d'Italia, questo significa che le alluvioni non sono tanto infrequenti o comunque quando arrivano sono piuttosto disastrose. Quindi dire che la piena era millenaria, che la ricorrenza dell'evento è plurisecolare, aiuta poco, perché noi dobbiamo fare riferimento agli ultimi decenni, che sono stati più caldi, più energetici e più pieni di eventi. Direi che questa cosa va un pochino, insomma, va detta in un altro modo, ecco. Però Mario, quello che ci chiediamo in tanti, proprio tra gente comune, insomma, ma il tempo effettivamente sta cambiando, perché da una parte si dice ci sono i catastrofisti che vedono in qualsiasi segnale la catastrofe imminente, da un'altra parte forse ci sono quelli un po' le cicale allegre che qualsiasi cosa, il gas serra, inquinamento eccetera, in realtà non fa nulla. Dove sta la verità secondo te? Però in mezzo ci sono gli scienziati, e forse è il caso di sentire quelli. Gli scienziati ci dicono molto chiaramente che il clima sta cambiando e che questo cambiamento si traduce in una maggiore energia in gioco nel sistema atmosferico, cioè c'è più calore nell'aria, quindi c'è più energia, più disponibilità per eventi meteorologici a carattere violento, che sono infatti negli ultimi anni aumentati di frequenza, di numero, di intensità, e anche avvengono fuori dalle zone canoniche e addirittura fuori stagione. Qui non è questo il caso, ma insomma, quindi sarebbe un po' da sciocchi far finta di niente di fronte a questo. Francamente, diciamo, dell'opinione pubblica rispetto a queste cose, che si forma la sua conoscenza in base a non so bene quali meccanismi, tutto sommato di questo mi importa poco. La cosa importante è sapere come stanno le cose si misurano e ci dicono questo. Basta contare, misurare questi eventi, basta vedere quanto aumenta la temperatura per avere la risposta. La risposta è una risposta che non ci piace, perché questo alla fine dipende da noi. Quindi dipende dall'uomo, come continuano a dire forse la gran parte degli scienziati, no? Negli ultimi anni. Guarda, le catastrofi naturali non esistono. Esistono gli eventi naturali che diventano catastrofici solo e unicamente per colpa nostra. L'unico evento naturale che è catastrofico di suo è l'impatto con un asteroide, il resto dipende tutto da noi. Sto guardando i messaggi, Mario, perché chiede un ascoltatore: come mai se il ciclone maschile si chiama Cleopatra? Perché funziona così: nelle perturbazioni però tropicali si danno i nomi agli eventi ciclonici in ordine alfabetico, prima i nomi femminili e poi i nomi maschili. Abbiamo osservato. Si usa più o meno, ricordiamo Katrina. Sì, infatti, ma è l'uragano, no? L'uragano Katrina era quello. Esatto. Noi veramente, io non apprezzo molto questo sistema di personalizzare la perturbazione. Lascerei i numeri come li abbiamo sempre chiamati nel Mediterraneo, perché abbiamo usato sempre il numero e la sigla del mese, grosso modo. Però, se lo si vuole proprio fare, vabbè, a qualcuno, diciamo, lo trova più suggestivo, non lo so, insomma, io francamente mi occuperei di più. Mario, scusa, però hai detto appunto eventi climatici come questi non è che sono così eccezionali ultimamente, però no. Forse di ciclone che io abbia memoria in Italia non mi pareva di averlo sentito spesso. No, di ciclone. Vabbè, perché qui facciamo un po' di confusione. Allora, i cicloni sono tutte le perturbazioni, si chiamano cicloni perché è l'andamento che descrive un cerchio dei bracci di spirale della perturbazione. Esistono poi i cicloni tropicali, che sono quelli delle Filippine o del Golfo del Messico, Katrina, Ayan, eccetera, e poi i cicloni extratropicali, che sono i nostri. Quando dal punto di vista della forza dell'evento non sono paragonabili in genere. Ultimamente però, con il fatto che c'è molta energia in gioco e che l'acqua è più calda, in questo caso il Mediterraneo, ecco che questi fenomeni acquistano anche questa virulenza. Ma sono dal punto di vista sono molto simili dal punto di vista della perturbazione, funzionano grosso modo alla stessa maniera, le energie in gioco però sono diverse perché lo specchio d'acqua che li scatena, il motore, diciamo, è più piccolo nel caso del Mediterraneo, nel caso del Golfo del Messico, l'Oceano Indiano è più grosso. Senti, ma quindi dobbiamo aspettarci, Mario, che in Italia ci saranno più spesso questi eventi o...? Sì, sì, ma non c'è mica da aspettarcelo, già accade. Praticamente... quest'anno abbiamo assistito per la prima volta dopo tanto tempo a un tornado, era il 5 maggio in Emilia Romagna, poi abbiamo avuto altri fenomeni di questo tipo un po' dappertutto, insomma sparsi per il nostro territorio negli ultimi 20 anni. Ormai non c'è più l'alluvione, diciamo, di un tempo, quella che tu potevi prevedere arrivare a Ponte Lagoscuro del Po, no? Fai conto, dopo qualche giorno, una piena comunque poteva essere disastrosa, come nel caso del Polesine, ma comunque prevedibile, controllabile, come nel caso dell'Arno del 66. Sì, a Firenze. In 15 minuti l'assa fluviale più piccola, sono fiumi minori in genere, scarica tutta l'acqua che pioveva in 6 mesi, in poche ore. E quindi questo lo vediamo succedere già da parecchio tempo, già da anni. Ma considerato questo, quindi considerato che già come esseri umani provochiamo tutto questo, almeno cercare di mettere in sicurezza in Italia, no? L'Italia rimane altissimo livello di rischio idrogeologico, è un pourparler, un continuo parlare, intorno a questo ce lo diciamo continuamente e non viene fatto nulla, che tu sappia, Mario Tozio? No, viene... si fanno cose sbagliate, come nel caso della Sardegna, se ho visto bene, si cerca di costringere i fiumi negli argini, questo è sbagliato, non funziona, più che sbagliato, diciamo, ideologicamente, che non funziona, perché il fiume, se gli levi spazio, quello spazio se lo riprende, l'abbiamo visto in Liguria, l'abbiamo visto in Calabria, l'abbiamo visto in Sicilia, lo vediamo sempre. Dunque, più che di infrastrutturazione, cioè di argini, di briglie, di contenimento, il fiume lo dovresti lasciare libero di esondare in aree libere dove non c'è nessuno, è lì che lo devi fare esondare. Però se invece tu costruisci proprio nelle zone in cui non dovresti e quindi metti le case dove c'erano le paludi, è il caso della Sardegna per esempio, poi allora l'alluvione ti colpisce sicuramente, anche nel caso di Katrina, a più grande scala, hai elevato le dune, hai elevato le foreste costiere, hai elevato le paludi, poi ti lamenti se rimane solo New Orleans a beccarsi l'uragano. E la stessa cosa succede da noi, se tu costringi il fiume in un canale di cemento, gli chiudi il letto che una volta era ampio un chilometro, lo fai diventare di 100 metri e poi ci costruisci sopra le case, vuoi pretendere che quelle case restino all'asciutto? Ma non è possibile. Senti, avevo per ultima cosa, Mario, avevo visto oggi la proposta di un onorevole del PD che proponeva di avere il geologo di zona o in ogni comune, forse esagerato in ogni comune, però una figura professionale che... potrebbe essere necessaria per un territorio come il nostro? Beh, negli uffici tecnici comunali, specialmente quelli un po' più grandi, un geologo ci dovrebbe stare, nelle grosse città in teoria c'è, no? A Roma anche in pratica, ma in altre parti anche. Il geologo ti permette di avere quell'approccio territoriale che l'ingegnere non può avere, il geometra tantomeno, perché loro si preoccupano piuttosto dell'opera che non del posto dove è messa l'opera, e questo lo può fare solo il geologo, dunque è una competenza di cui almeno nelle zone a rischio sarebbe opportuno fornirsi. Mario Tozzi, io ti ringrazio, grazie, buona continuazione grazie come sempre voi. Col tuo lavoro. Ciao Mario, intanto sto vedendo, tanto per rimanere sempre collegati a mille cose, una dichiarazione del Presidente del Consiglio Letta che dice all'Assemblea del PD: la sfiducia alla Cancellieri è la sfiducia al governo. Quindi Letta continua a tenere, insomma, banco, a tenere una linea incrollabile rispetto alla ministra Cancellieri, perché sa che altrimenti effettivamente se dovesse un pilastro come il ministro della giustizia, qual è Cancellieri, cadere, probabilmente per effetto domino poi ci sarebbe una crisi di governo. Quindi è molto interessante capire adesso come andrà questa assemblea del PD, e per la quale vi dico appunto potete continuare, tra poco leggerò anche i vostri messaggi, a scrivere al 349-238-6666 oppure alla pagina Facebook di Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Ve lo ricordo sempre trattino perché si riconosce poi in mezzo ad altre che hanno più o meno lo stesso nome. Quindi adesso c'è la pubblicità e poi continueremo anche sui fenomeni meteorologici sulla Sardegna, ma anche di politica. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E allora le notizie adesso le riprendiamo con i titoli dei fatti principali e poi continuiamo a parlare un po' di della Sardegna, di quello che è successo, 2700 sfollati tra l'altro, l'ultimo bilancio, e parleremo anche di politica, di questa assemblea piuttosto tesa, immaginiamo, del PD, visto che Letta ha appena fatto una dichiarazione. Ma partiamo dai titoli. L'alluvione che ha colpito la Sardegna, il ciclone Cleopatra, il bilancio provvisorio di 16 vittime, ci sono anche 4 bambini, trovato vivo uno dei dispersi, e il governo decreta lo stato di emergenza e stanzia 20 milioni di euro. E poi abbiamo sentito appunto la dichiarazione di Letta alla riunione questa sera del gruppo PD, che dovrebbe decidere una linea comune per domani per il voto della mozione di sfiducia sulla cancelliere. Letta blinda la ministra e dice che la sfiducia sarebbe un voto contro il governo. E poi la caccia all'uomo a Parigi, è stato smentito l'arresto dell'attentatore che ha sparato nella redazione di Libération. Russia è libero su cauzione da Alessandro, il militante di Greenpeace in carcere in Russia dopo l'assalto a una piattaforma petrolifera di Gazprom nell'Artico. E poi il calcio, oggi serata di verdetti verso i mondiali 2014. E adesso c'è Paolo Panceri, il nostro Paolo Panceri in diretta. Ci sono delle ultime novità sull'alluvione in Sardegna, Paolo? No, sostanzialmente no. L'unica novità positiva, ma non è recente perché risale a un paio di ore fa, è il ritrovamento di uno dei due dispersi nella zona dell'Olbiese. È un allevatore di torpedi intracciato dalla Protezione Civile nel suo podere. Manca invece ancora l'appello un'altra persona. Ricordiamo che sono caduti 450 millilitri di pioggia in 12 ore, una cosa che nemmeno diluvio universale probabilmente ha mai visto, soprattutto sulla zona di Nuoro e Olbia. Qui in particolare a Olbia il sindaco Gianni Giovannelli ha stabilito 2 giorni di lutto cittadino che sono previsti domani e dopodomani. In particolare domani le scuole resteranno chiuse durante i funerali delle 13 vittime che sono state registrate in zona, su un totale di 16, mentre altre fonti dicono che invece le vittime siano 18, quindi il dato è ancora suscettibile di variazioni. Per quanto riguarda brevemente il bilancio dei danni, oltre ovviamente agli edifici distrutti, ci sono anche quasi 500 km di viabilità locale coinvolti in crolli, frane e allagamenti, e i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 600 interventi. Un dato generale, secondo la Forestale, sono 6.631 i comuni italiani, cioè l'82% del totale, in aree di elevato rischio idrogeologico, cioè il 10% della superficie italiana, con una popolazione in questi comuni che è di quasi 6 milioni di persone. E per momento direi che è tutto, ti do la linea. Grazie Paolo Panceri. Adesso spostiamoci sulla politica con Chiara Geloni. Buonasera Chiara. Buonasera. Direttrice di UDEM, che è la TV ufficiale del Partito Democratico, che Chiara Geloni con Stefano Di Traglia, autrice di Giorni Bugiardi, primarie, elezioni, Quirinale, così poteva cambiare l'Italia. Adesso vedremo come cambierà o non cambierà Chiara. Adesso c'è una decisione cruciale da prendere, anche in base a questa decisione che verrà presa stasera dall'assemblea convocata per il PD, che diverse cose potrebbero prendere un verso o un altro, no? Sì, guardi, io la ringrazio per la citazione del libro e credo che anche questa vicenda di stasera dimostri una tesi che attraversa il nostro libro, che racconta appunto i mesi della campagna elettorale e poi dell'incarico a Bersani di formare il governo fino ai giorni dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Il punto è che in questo paese è tutto dipende dal PD, non è propaganda. È il lago della bilancia, effettivamente, a parte che è il più grande partito a livello anche numerico, no? A parte che è il primo partito, a parte che non ha vinto perché non ha una maggioranza autosufficiente e quindi non ha potuto fare il governo di cui aveva parlato in campagna elettorale, ma è il primo partito, la prima coalizione, il più grande gruppo parlamentare alla Camera e al Senato. E poi soprattutto anche le cose successe dopo, diciamo, i giorni bugiardi che noi raccontiamo, la scissione praticamente di tutti gli altri partiti presenti in Parlamento, il calo brusco tanto quanto l'esplosione era stata inaspettata del Movimento 5 Stelle. Però Chiara, dimostrano che solo il PD può decidere le sorti del governo, ancora una volta sta tutto nelle sue mani, con tutti i suoi difetti. È una grande responsabilità, nel senso che le due cose cruciali in questo momento sono, da una parte, la campagna per le primarie. Renzi, abbiamo visto ieri, ha vinto perlomeno nella prima selezione, no? Quindi lasciando probabilmente fuori dalla corsa Pittella, diciamo, hanno votato i circoli, cioè gli iscritti, e tra gli iscritti Renzi è risultato il primo a seguire Cuperlo e poi ci va. Poi ci saranno le primarie aperte dell'8 dicembre. Però adesso la cosa più imminente è questa dell'assemblea del PD questa sera, che dovrà decidere cosa fare sulla questione cancellieri. Hai sentito che poco fa Letta ha detto alla riunione del gruppo PD che la sfiducia sarebbe un voto contro il governo, quindi lui è contrario. Riusciranno a definire una linea comune questa sera? Sì. Penso di sì, penso che il peso del Presidente del Consiglio, che ha messo sul piatto della bilancia tutto il peso del governo e la responsabilità del governare, richiamando appunto il PD a questo dovere che dicevo di far fronte alle responsabilità che il risultato elettorale gli ha conseguito e delle quali non sempre il PD è stato all'altezza, penso che porterà stasera alla decisione di conferire al Presidente del Consiglio quella fiducia che lui ha chiesto al suo partito. Penso di sì, perché non è più la fiducia o la sfiducia del Movimento 5 Stelle al ministro Cancellieri, ma a questo punto è il Presidente del Consiglio che chiede al proprio partito un atto di fiducia nel governo e di responsabilità. Io adesso... Mi sembra difficile che il PD si possa sottrarre di fronte a questo appello del Presidente. Del Presidente del Consiglio Letta, sì, dici. Sì. Però in questo modo si smentirebbero Renzi, che già diverso tempo fa aveva detto molto apertamente: se fossi stato nel Presidente del Consiglio, segretario anzi del PD, non l'avrei difesa, e secondo me dice fa un servizio al Paese se si dimette. Lo ha ribadito ancora in queste ore. Civati presenterà anche questa sera una mozione di sfiducia presenterà lui sua, ma per il PD, insomma, che la possa votare, quindi al di fuori di quella del Movimento 5 Stelle, per non dire ci accodiamo al Movimento 5 Stelle. Quindi che cosa succede? Si rimangiano tutto? Guarda, Civati non ha mai votato la fiducia al governo, né quando il governo è nato, né il 2 ottobre. Ha sempre scelto unilateralmente, in autonomia, rispetto al gruppo, di non votare, di non partecipare al voto, di astenersi o di votare contro. Per cui che Civati presenti una mozione di sfiducia, diciamo che non sarebbe neanche una notizia, ecco, se volessimo proprio guardare agli atti di Civati in questo periodo. Quanto a Renzi, oggi mi pare che Renzi abbia detto che lui personalmente riterrebbe che la cancelliere dovrebbe dimettersi prima del voto di domani. Ma lo farà? Lui personalmente riterrebbe che avrebbe ritenuto che il Presidente del Consiglio non debba difenderla, ma ha anche detto di essere pronto a rimettersi alla decisione collettiva. Quindi Chiara, io non credo che sarà una prova di forza. Staremo a vedere se c'è braccio di ferro. Comunque, vedremo. Chiara, ci fermiamo un attimo, rimani con noi, Chiara Geloni, perché abbiamo aggiornamenti per chi viaggia. Poi ricordo un attimo i titoli dei fatti principali e poi ti leggo alcuni dei tanti messaggi che stanno arrivando sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666 i messaggi. Pochi istanti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ricordo i titoli dei fatti principali, poi continuiamo a parlare con Chiara Geloni. Il ciclone sulla Sardegna che ha fatto 16 vittime, Letta dice a Olbia la ricostruzione sarà fuori dal patto di stabilità. Per quanto riguarda il PD, Renzi chiede le dimissioni della cancellieri, questa sera c'è l'assemblea del Partito Democratico, ma il Presidente del Consiglio blinda la ministra e dice un voto di sfiducia nei suoi confronti e un voto di sfiducia nei confronti del governo. Russia libero su cauzione d'Alessandro, militante di Greenpeace in carcere nel paese dopo l'assalto a una piattaforma petrolifera di Gazprom nell'Artico. E poi per il calcio, ne parleremo tra poco. Ogni serata, oggi è serata di verdetti verso i mondiali 2014. C'è sempre appunto Chiara Geloni, direttrice di UDEM. Quanti ascolti fa la TV ufficiale del Partito Democratico? Chiara? Ascolti un po' difficile perché non siamo più sul satellite. Negli ultimi 4 anni, da quando sono direttore io, UDEM ha ridotto di un quarto i propri costi e una delle voci di spesa tagliate è stata la presenza sul satellite. Va bene, quindi insomma, era giusto, quindi, una curiosità. Diciamo Chiara, che il pezzo più visto di questa settimana ha totalizzato circa 28.000 visualizzazioni. Adesso guardiamo i messaggi che arrivano appunto tra la pagina di Effetto Notte Facebook e il 349-238-6666. Allora, c'è un ascoltatore, vediamo se lo ritrovo, che dice... Anzi, è Emilia, non so se quindi scrive dall'Emilia o si chiama Emilia. Sto aspettando che si definisca la questione della cancellieri prima di rinnovare la mia decennale adesione attiva al PD, perché mi vergogno, scritto a caratteri cubitali, per i due Letta e per Napolitano, dato che loro e i loro amici ricchi e potenti sono senza vergogna. Poi dice invece Gianni, la cancellieri è una gran persona. Poi altri messaggi, perché si mischiano un po' anche con la questione della Sardegna. In un paese normale la cancellieri avrebbe già fatto un passo indietro, altrove si percepisce responsabilità politica in maniera decisamente migliore, dice Diego da Lecce. Poi cancellieri a casa, diversi messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Diciamo che non c'è molto consenso forse da parte anche forse della stessa base PD, Chiara Geloni, a questa vicenda della cancellieri, alla blindatura da parte del Presidente del Consiglio. La base del PD sta accettando molte cose poco gradite. Come le larghe intese, a partire dalle larghe intese, no? A partire appunto dal governo che non è il governo per cui hanno fatto campagna elettorale, e questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Ha ragione il signore che dice che in un altro paese probabilmente un ministro lambito da sospetti, anche se non indagato, si dimette. È vero anche che la cancelliere non è un ministro del Partito Democratico. È vero anche che in Italia ci sono dei condannati in via definitiva che discutono la anche in Parlamento, delle loro in questo caso è una situazione generalmente imbarazzante, diciamo, che ragioni. Quindi forse tanto normale questo paese non è. Infatti, sì. E in questo senso il PD cerca di essere anche qui il punto di normalità e di mantenere un equilibrio nel giudicare le cose in maniera non faziosa e in maniera anche però equilibrata, consapevole delle responsabilità che comporta. Comunque Renzi, che pare possa essere, lo possiamo dire, insomma, a meno di sorprese verso Cuperlo, dovrebbe essere quello che uscirà vincitore dalle primarie dell'8 dicembre, ma non è detto. Comunque ha dichiarato: ora si vota per cambiare l'Italia e nulla sarà più come prima. Un po' apocalittica questa dichiarazione, perché nel paese del Gattopardo mi sembra un po' strano che nulla possa essere come prima. Ma se vincesse Renzi, che paese potrebbe essere? Lui dice: intanto non ci sarà un vice segretario per il PD, non servono incarichi di consolazione, ma incarico di partiti diversi. Sinteticamente, Chiara Geloni, proprio in una tua così analisi, che cosa succederebbe se vincesse Renzi? Penso che ci sarebbe un nuovo segretario del PD senza vice segretario. Complimenti, perché ho letto che vuole fare il sindaco di Firenze, quindi tutto lui, veramente dice. Vorrebbe dire che riesce a fare un sacco di cose contemporaneamente, ma comunque ognuno poi si organizza il partito come crede, e sarebbe giusto dare fiducia al segretario nuovo e che faccia quello che pensa di fare. Certo che non mi pare che ci sia questa aspettativa appunto apocalittica o catartica che queste parole di Renzi alimentano. Renzi non ha raggiunto il 50% dei consensi tra gli iscritti, ha votato un numero iscritti, che fa sì che Renzi abbia circa la metà dei voti che aveva preso Bersani nel 2009 alle primarie, il voto degli iscritti. Insomma, non c'è quest'ondata di italiani che si precipita al seggio per votare Renzi in attesa di questo cambiamento epocale. Però staremo a vedere l'8 dicembre. No, ma è che infatti non significa niente, però ecco, bisogna anche fare i conti con la realtà e forse queste aspettative così un po' indistinte di chissà quali catarsi non sono poi così giustificate. Però auguri, vinca il migliore. Vinca il migliore, magari ci risentiamo, Chiara Geloni. Grazie intanto. Ciao, voi, buona continuazione. Ti piace questa botta di vita, come si dice? Che bello questo samba. Tra l'altro, a proposito di vinca il migliore, entrando subito in cronaca, visto che stasera è serata di Verdetti. E visto che ci manca un minuto e mezzo. Ecco, il migliore direi che finora è Cristiano Ronaldo, che ha appena segnato il gol del vantaggio del Portogallo. Sicuramente il più bello, ecco, si possiamo dire. Insomma, piace a tutti. Ronaldo ha segnato e non si è neanche spettinato, Roberta. Quindi questa è la doppia notizia. 1-0 per il Portogallo a Solna contro la Svezia di Ibrahimovic, che fa il paio con l'1-0 dell'andata, sempre per i portoghesi, sempre a firma Cristiano Ronaldo. Quindi a questo punto, quando mancano circa 25 minuti alla fine della partita, la qualificazione sembra fatta per i lusitani. Vicinissima alla qualificazione anche la Grecia, 1-1 finora in Romania, ancora segno Mitroglou. All'andata i greci hanno vinto per 3-1, di fatto qualificata. Manca pochissimo la Croazia, che sta battendo 2-0 l'Islanda dopo lo 0-0 dell'andata a Reykjavik. Grande attesa per la Francia, che è in vantaggio per 2-0 sull'Ucraina, quindi di fatto ha ristabilito la parità, perché i francesi all'andata a Kiev hanno perso proprio per 2-0. Le reti di Sakho al 22esimo, al 34esimo di Benzema, anche questo secondo gol però in netto fuorigioco, fa il paio con quella mano di Henry, che aveva aiutato non poco i francesi a qualificarsi per Sudafrica 2010. Quindi ti farà piacere sapere che in Africa invece si è qualificata anche l'Algeria dopo il Ghana, vincendo, battendo ad Algeri il Burkina Faso per 1-0. Quindi di fatto abbiamo, tra pochi minuti avremo il quadro completo di tutte le qualificate. E magari ci aggiorniamo allora tra poco. Grazie Dario Ricci, grazie dopo, ancora un dopo. Po' di samba, mentre ci lasciamo al momento per ritrovarci poi anche con questi aggiornamenti.